Intendiamo metterci davanti a questo testo in modo semplice, umile, soprattutto coscienti della loro complessità. Sai, si può entrare a parlare di amore, filosofia, la teologia, la psicologia, la sociologia. Non è che la mettiamo tra parentesi stamattina. Vogliamo però tentare di cogliere questa dinamica che si è sviluppata tra l'interlocutore e Gesù. Solo un dottore della legge non sa che il primo comandamento è quello dell'amore. Fa venire in mente una preghiera di Gesù Cristo: ti ringrazio Padre che hai taciuto queste cose ai sapienti e le hai rivelate agli umili. Faccio una piccola nota. L'ignoranza religiosa, giustamente deplorata come la prima causa dell'attuale diserzione cristiana, più che un'ignoranza di dottrina, è un distacco dal significato umano di essa, della inesausta fecondità delle sue azioni rinnovatrici. La domanda fatta a Gesù per contestarlo nasce da una preoccupazione giusta. Nel mondo giudaico c'era l'esigenza di trovare un principio, un'idea di fondo che unificasse la raccolta dei comandamenti. Infatti, oltre ai 10 comandamenti, c'erano 613 comandamenti. Non devi meravigliare questo uso dei numeri, perché sono simbolici e hanno il loro fascino. 613 è la somma dei 365 giorni dell'anno. Precetti negativi, quelli che proibivano. 248 allora era, come dire, il numero delle membra del corpo, ed erano positivi. Dicevano che cosa fare. Ora, in questa immaginazione si diceva la stessa cosa che dice Gesù Cristo, che riprende quanto sta scritto e insiste sul tutto. Ama il Signore Dio con tutto. Indica che è necessario obbedire a Dio in tutto il tempo. Però nell'interlocuzione, nella diatriba, chiamiamola come vogliamo, subito lui va oltre, perché accosta al comandamento dell'amore per Dio quello dell'amore per il prossimo. Non ci sono paralleli. Anche nella cultura ellenica, cioè giudaica antica, amerai il prossimo tuo come te stesso. Gesù, risalendo al legislatore, discerne che amore di Dio e del prossimo sono in relazione inscindibile, principi non negoziabili. La legge e i profeti sono riassunti e dipendono dall'amore di Dio e del prossimo, non l'uno senza l'altro. Non a caso, nel testo che l'Evangelista ci propone, il secondo comandamento è definito pari al primo, con la stessa importanza, lo stesso peso. Faccio una... non per tirarla in lunga, non c'è bisogno, ma per sottolineare come Gesù, quando dice alcune cose, è radicato dentro nella cultura che noi chiamiamo biblica. Faccio una piccola carrellatina. Amare è il verbo della vita, per eccellenza. Non è un comandamento, è una ricerca. Infatti nella Bibbia si dirà, e tu lo ripeterai, perché poi avevano ridotto in questo sforzo di armonizzazione anche la legge e i profeti a uno solo dei comandamenti, ascolta Israele, che viene ripetuto centinaia e centinaia di volte. L'invito, questo, a crescere non sotto i canoni fissi degli sterili dogmi umani, ma nella attraente luce della parola. Tu lo ripeterai. Amare era l'antico verbo della tradizione israelita, quello che mise in cammino Abramo, notate, il verbo che anima la sua ricerca e lo porterà a unirsi a delle donne che secondo lui gli facevano o gli potevano assicurare la continuità della vita e gli poteva permettere di sentire davvero l'amore divino. Notate che complessità, ma che stupore. Amare è stato il verbo di Mosè, espresso nella solitudine più profonda, dove la divina presenza si trasformava in una semplice roccia. Grido di un desiderio, a volte frustrato, altre volte esaudito, come un bacio insperato. Amare è stato il verbo di Naomi e Ruth, che avevano tessuto le trame di una storia, dignità e liberazione nella solidarietà femminile. Amare è il verbo per eccellenza nel canto dei cantici, fino a usare un linguaggio fortemente erotico, ma per dire l'amore. In questo quadro presentato da Matteo si evidenzia il canto che rompe i confini della storia. Adesso potrei anche chiudere. Per noi comunque aggiungo questo. Amare è una parola che mette stupore, ma anche disagio. Come dire che il grande comandamento sembra non ci lasci lo spazio di libertà. Ama il Signore Dio tuo, ama il prossimo come te stesso. La morale come imposizione che si oppone al libero esercizio delle facoltà, cuore, mente, anima. Ma è vero però che queste facoltà che ognuno di noi possiede hanno bisogno di infinito. E quindi quel tutto, ama il Signore di Dio con tutto e anche il prossimo con tutto, è per dire che, metto tra parentesi, il lavoro che facciamo per fare armonia con la verità, con la bellezza, con il bene, con la tenerezza, con il coraggio, con la fiducia, è un tentare di vivere autenticamente. Se c'è qualcosa lo pigliate e ve lo tenete. Diversamente lasciate libero spazio al vostro pensiero. Gloria a Dio nell'alto.